Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 22 giugno 2015. La rete dei gas italiani cresce ancora. L'economia solidale dal basso è diventata grande. Si è aperta oggi l'Assemblea nazionale dei gruppi di acquisto solidale e dei distretti dell'economia solidale. Una realtà oramai solida e diffusa che in poco più di un quindicennio ha coinvolto centinaia di migliaia di famiglie italiane. L'obiettivo per gli anni a venire resta quello delle origini, ovvero diffondere un modello alternativo di consumo etico, sostenibile dal punto di vista ambientale, vicino ai produttori e al territorio, autogestito e responsabile. La rete dei gas continua a mantenere le caratteristiche di un fenomeno dal basso, ma si sono sperimentate anche esperienze convincenti di coordinamento sul piano logistico che riducono i costi, anche ambientali, mantenendo un'alta remunerazione dei produttori. Fin qui la notizia del 22 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Si apre oggi alla Golena del Furlo, nelle Marche, l'Assemblea Nazionale dei Gruppi di Acquisto Solidale e dei Distretti dell'Economia Solidale. Davide Biolchini, del Tavolo Nazionale dei Gas. Noi abbiamo lanciato una ricerca nazionale per verificare come i gas stanno vivendo questa fase, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, del rapporto con gli acquisti, il territorio, i produttori. E da questa ricerca stiamo avendo un feedback importante, cioè che il numero di gas in realtà è da 2 a 3 volte quello degli iscritti, quindi siamo a più di 2000 gas a livello nazionale. Ogni gas ha circa 30-50 famiglie, quindi si fa presto a mettere in rilievo che ci sono alcune centinaia di migliaia di persone che hanno fatto questa scelta di acquisti consapevoli e solidali, di rapporto diretto con i produttori, di messa in discussione di alcuni valori o disvalori meglio dell'attuale società, in particolare il consumismo, il rapporto con i supermercati, la grande distribuzione organizzata come unica relazione anche per l'acquisto del cibo, il mancato rispetto della natura. Ci sono alcuni progetti denominati di piccola distribuzione organizzata. A Varese si è costituita una cooperativa da parte dei 20-25 gas che si chiama Ecos, che gestisce fino ad alcune decine di tonnellate di ortaggi durante il periodo estivo la settimana, e le gestisce appunto con un progetto di logistica che ha l'obiettivo ed è mantenuto di garantire al produttore fino all'82% del prezzo finale, proprio ribaltando completamente la percentuale, no? Perché anche le associazioni di coltivatori come Coldiretti dicono che ormai all'agricoltore va soltanto il 15-17% del prezzo finale, tutto il resto se lo mangia la catena della grande distribuzione organizzata. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.